Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cam camini, cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte allora, è con voi se la mano. Volevamo rifugiarci nel mondo delle fiabe, anche un po' per sfuggire, così qualche minuto esatto. Da queste emergenze che tutti quanti ci attanagliano. Tra l'altro sta parlando il Premier Conte in questo momento, prima abbiamo sentito nel giornale radio il Ministro dell'Economia Gualtieri e vi daremo magari qualche flash fra qualche istante sulle indicazioni che stanno emergendo dal Consiglio dei Ministri che si è svolto questa mattina, di cui il Premier sta dando comunicazione. Arriva un piano per il sostegno a questa fase di difficoltà economica molto importante. Adesso vi daremo qualche dettaglio, insomma, volevo stare sulla cronaca, volevo fare un po' la cronista d'assalto in questo momento, Mauro. Ma guarda Deborah, sei bravissima. Volevo darti il benvenuto sì? Qui a casa nostra, cioè noi restiamo a casa nello studio in un certo senso, ma io però quasi quasi domani la faccio da casa la trasmissione. Facciamo un po' una prova, facciamo un test se funziona tutto, dai. Ma volentieri, perché no? Tu fammi da punto d'appoggio qui. Io sarò qui in guanti bianchi, come possono vedere coloro che ci seguono su Facebook, che quindi ti attrezzerò tutto al meglio. Io oggi invece ho quelli blu, anche ieri ce li avevo in questa versione. Oggi mi sento un po' pescivendola. Ecco, vuole del branzino o un pesce persico? Cosa preferisce? Ma mi faccia vedere che cosa abbiamo del pescato fresco oggi. Allora, proviamo a scherzare un po' per quanto si possa riuscire. Oggi di che parliamo? Lo diciamo subito. Di Mary Poppins intanto. Di Mary Poppins, perché abbiamo usato una canzone di Mary Poppins? Perché, ohimè, è fallito il produttore del musical Mary Poppins. 20.000 biglietti a Milano che non potranno essere rimborsati perché grazie. Non c'è niente da fare. Ne avevamo già dato notizie, c'erano state grosse difficoltà e purtroppo queste difficoltà si sono rivelate insormontabili. Bisognerà vedere come andrà a finire con le varie richieste di rimborso che anche le associazioni dei consumatori avevano portato avanti, per capire se c'è almeno il margine per ottenere un parziale rimborso del biglietto. Io, sai Deborah, non sarei così fiducioso, però probabilmente. Allora, certamente per le famiglie che avevano prenotato questo spettacolo adesso non potranno gustarselo, magari in questi giorni le priorità, le emergenze sono altre, ma se vogliamo gettare benzina sul fuoco non prenderete manco questo rimborso. Magari però arriva il voucher per la babysitter d'emergenza. E infatti noi di babysitter vogliamo parlare. Per la Mary Poppins d'emergenza, sì. Per quello abbiamo preso proprio questo caso di cronaca di Mary Poppins, perché vogliamo parlarvi di babysitter, perché si discute, e vedremo poi nel decreto che sarà varato venerdì come potrebbe essere articolato, si discute di un rimborso babysitter. Un voucher, sì. Quello che si immagina è di accordare alle persone che si sono trovate in difficoltà un bonus, una cifra mensile che valga, ad esempio, anticipa oggi il Sole 24 Ore, per chi ha figli fino ai 12 anni. Ora naturalmente mi immagino subito che ci saranno delle polemiche, ma io ho il figlio di 13, però c'ho bisogno. Esatto, vabbè, diciamo che quello di 13 in via teorica potrebbe essere anche autonomo e quindi non aver bisogno della babysitter, e però tanto dei criteri devono essere stabiliti, signori miei, per quanto si possano mettere in campo enormi risorse in questa fase, forse vanno aiutate anche le aziende che improvvisamente tirano giù la clerk, come si dice, la saracinesca, e si trovano veramente a produzione zero in questo momento, per cui devono essere fatte anche delle scelte che magari non accontenteranno tutti. Però insomma qualcosa c'è e quindi gestiremo anche questa. Oggi, appunto, essendo mercoledì, ci concentriamo a più livelli sul lavoro, perché oltre alle babysitter parleremo anche di tutte le misure di smart working, lavoro a distanza, telelavoro. Abbiamo di nuovo convocato il nostro esperto abituale, ormai Enzo De Fusco, per farci raccontare anche che cosa potrebbe arrivare in questo famoso decreto di venerdì, esatto. Decreto di sostegno all'economia, quello di cui sta riferendo anche il Presidente del Consiglio e che dovrebbe avere una dote iniziale di una dozzina di miliardi, ma ci sarebbe spazio per chiedere ulteriore flessibilità e quindi arrivare a uno stanziamento che potrebbe ormai superare i 20, forse arrivare anche a 25 miliardi. E poi si è resa disponibile questa mattina una grande agenzia per il lavoro, Open Job Metis, e ieri ci hanno scritto e ci hanno detto: guardate che stiamo ricevendo tante richieste, naturalmente di babysitter, ma anche di profili diversi, quelli di cui c'è tanto bisogno in questa fase, di infermieri. E quindi, se volete sapere qual è il nostro punto di vista in questo momento e quanto paradossalmente c'è bisogno anche di una serie di professionalità, siamo a vostra disposizione. Noi questa mattina le abbiamo molto volentieri interpellati, per cui è proprio il caso di dire di necessità virtù, e questo è proprio un momento in cui questo detto è più che mai vero. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta per le vostre domande sulle tematiche del lavoro. Sapete che in questo momento l'azienda può anche chiederci di andare in ferie forzate se bisogna chiudere temporaneamente la produzione, ci si può mettere anche in quarantena spontanea se siamo venuti in contatto con un Covid-19. Allora molti lavoratori chiedono: ma come viene considerato quel periodo? È una malattia? Anche quella è una feria forzata? Come deve essere disciplinato appunto nel rapporto con il datore di lavoro? E Enzo De Fusco risponderà a tutte queste domande. Detto questo, vi racconterò anche oggi come vanno i mercati. C'è sereno Meglino, senza tanti sforzi direi, però almeno c'è il segno più. La Banca d'Inghilterra ha tagliato i tassi e noi siamo qua appesi a quello che farà domani la Banca Centrale Europea, dalla quale ci aspettiamo, non ti dico un whatever it takes 2.0, ma qualcosa di altrettanto convincente. Tutto quello che serve, speriamo. Domani, tra l'altro giovedì, faremo come sempre investire informatiche, e di questi giorni assume un significato tutto particolare. Esatto. C'è un pochino di giornale radio del risparmio, ovviamente connesso alle vicende del virus. Drin drin, edicola risparmio. Possiamo andare, come sai noi vogliamo sempre giustificare la scelta musicale, ma non la sappiamo giustificare questa mattina. Orange Crush? Ma non lo so, forse perché il crush sottintende così le difficoltà, lo stop. La zona arancione, ti prego. No vabbè, adesso vado là e gli meno. Perché lo meno zona proprio. Arancione, non ci sarei arrivato neanche se fossimo stati in onda 6 ore. Carmelo, sei complice pure tu, le prendi pure te stamattina, così, a volontà. Va bene, un'associazione delinquere. E poi ribadisco, insisto sulla terminologia, arancione, rosso, rossa, gialla, è tutto tramontato questo, adesso è tutta zona protetta. Zona protetta, che è la definizione che effettivamente ha usato il Presidente del Consiglio ieri nell'annunciare le ulteriori misure. Allora, Trenitalia ha un nuovo criterio per prenotare i posti a bordo delle frecce. Ricordiamo che però gli spostamenti devono essere assolutamente limitati, anzi il decreto del Presidente del Consiglio dice vanno evitati, a meno che ci siano necessità veramente inderogabili di lavoro o questioni di salute altrettanto inderogabili. Quindi, se qualcuno si trova in queste condizioni, speriamo il meno possibile, perché abbiamo capito che meno ci muoviamo e meglio è. Allora, Trenitalia ha comunque avviato un criterio per prenotare i posti a bordo delle frecce in modo da mantenere le distanze di sicurezza tra i passeggeri. Ricordiamo anche qui, tra parentesi, le distanze di sicurezza viene considerata almeno di un metro. Se anche un metro e mezzo, abbiamo capito che i medici sono contenti e anche più contenti. Quanto stiamo distanti io e te? Non abbiamo mai fatto un braccio e mezzo, quindi abbiamo abbastanza spazio per non così venire a contatto. Questo per quanto riguarda Trenitalia, ripeto, solo per coloro che avessero davvero validi, validissimi, giustificati e gravi motivi per spostarsi. Debole. Allora, visto che hai parlato di trasporto ferroviario, io parlo di quello aereo. Peraltro sono ore in cui si sta addirittura discutendo della possibile chiusura di uno dei due aeroporti lombardi, o Milano Malpensa, proprio nel caso in cui dalla regione Lombardia partano restrizioni ancora più impegnative di quelle deliberate nelle ultime giornate, come chiede appunto a gran voce il governatore Fontana. E allora, trasporti aerei, le ultime notizie sono quelle che si riferiscono al fatto che per esempio Ryanair ha annunciato ulteriori tagli ai propri operativi da e per l'Italia e all'interno del territorio nazionale in risposta al blocco imposto nel weekend dal governo italiano per i viaggi da e per la zona arancione del nord Italia, la zona protetta del nord Italia, oltre ad alcuni altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto ha comunicato il vettore irlandese, dalla mezzanotte di martedì 10 marzo, quindi dalla mezzanotte di ieri, alla mezzanotte di mercoledì 8 8 aprile Ryanair sospenderà tutti i voli domestici in Italia da e per Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso. Inoltre, dalla mezzanotte di giovedì 12 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile, la compagnia opterà per un piano fortemente ridotto di voli internazionali da e per Bergamo, Malpensa, Venezia, Parma, Rimini e Treviso, che saranno operativi solo il venerdì, il sabato e la domenica e il lunedì. Allora, se volete altri dettagli sui nuovi, sulla nuova operatività di Ryanair, potete sicuramente cercare informazioni sul sito. So già che molti ci scriveranno, perché la compagnia non chiarisce molto bene se è in grado di rimborsare o meno questi voli prenotati. So per certo che comunica la cancellazione dei voli. Sul tema dei rimborsi faremo chiarezza, perché mi risulta che a qualcuno i rimborsi siano stati promessi e consentiti, altri ascoltatori invece che ci hanno scritto in questi giorni ci dicono che è molto difficile parlare con la compagnia per capire se se ne è nel diritto, visto che c'è adesso una disposizione ufficiale di riduzione radicale dell'operatività. Speriamo che vengano incontro almeno con l'erogazione di voucher a tutte, appunto, le esigenze delle persone che rinunciano con il viaggio, rinunciano al viaggio appunto con la compagnia. Io do due notizie che vogliono essere tranquillizzanti, rassicuranti. Allora, le compagnie di fornitura dell'energia elettrica e del gas hanno fatto sapere che non c'è alcuna criticità nella fornitura di gas ed elettricità. Un sondaggio che è stato condotto dall'agenzia Radiocor tra i maggiori operatori, che hanno garantito appunto che non ci sono state particolari picchi di richieste, che quindi tutto sta funzionando regolarmente, e anche grazie, insomma, all'utilizzo dello smart working anche per queste aziende il servizio è garantito in condizioni normali, così come Coldiretti ci fa sapere che sono garantite le scorte alimentari. Quindi anche la grande distribuzione continua ad essere molto, molto chiara da questo punto di vista, che sta garantendo la fornitura di tutti i supermercati di tutta Italia. Le merci possono entrare e uscire dalle zone interessate. La Coldiretti segnala che appunto le merci possono circolare, gli approvvigionamenti sono garantiti, non c'è ragione davvero di correre ai supermercati per l'accaparramento, per fare delle scorte particolarmente voluminose. Tra l'altro io ho scoperto in questi giorni, stando praticamente reclusa in casa, vengo qua lo stretto necessario, che ho un sacco di scorte in casa che non ne sapevo, quindi anche in questo momento come dire, un buon momento per rivedere le nostre dispense e, come dire, magari consumare anche con un criterio diverso rispetto al passato, non comprare per far stare lì nel frigorifero e mandare in scadenza e buttare magari qualche volta, ma ripristinare un po' anche di ordine all'interno delle nostre dispense, come vi dicevo. Sempre ovviamente considerazioni per alleggerire un po' la trasmissione, Mauro, ma sono già le 11:22, le babysitter qua bussano alla porta. E allora facciamole entrare. Dov'è il nuovo lavoro? Allora, caso di insegnante a tempo determinato precaria, ci scrive già un'ascoltatrice. Gli è stato detto che ha diritto ai voucher per la babysitter, ma in che senso? Può avere dei voucher per pagare una babysitter, ma non ne ha bisogno perché è a casa? O può ricevere voucher per essere pagato come babysitter? Allora, magari potessimo avere le risposte a tutto questo. Io direi che anche qui, come abbiamo suggerito nei giorni passati, cerchiamo anche di fare delle domande, di avere un'impostazione mentale all'insegna del buonsenso. È chiaro che il voucher babysitter andrà a quelle persone che hanno bisogno di utilizzare la babysitter in questo momento, perché anche se tutti sono invitati a stare a casa dal proprio posto di lavoro, qualcuno continua a lavorare. Sto pensando ai farmacisti, Mauro, ai commessi dei supermercati, che magari hanno 3 figli a casa che non vanno a scuola. Ci sono persone che hanno bisogno, sono quelle che andranno aiutate con un riconoscimento e magari con questo voucher. Immagino di sì, ma purtroppo non siamo in condizioni di rispondere puntualmente, e non lo saremo fino a venerdì, a meno che qualcuno dei nostri esperti in collegamento abbia qualche anticipazione. Ma anche in questo caso vi invitiamo ad avere la massima prudenza, perché dobbiamo prima vedere davvero che cosa viene varato, che cosa viene scritto materialmente nei provvedimenti governativi che attendiamo per venerdì. Da chi vogliamo cominciare? Allora, intanto saluto, perché è un ritorno, visto che è stato da noi da pochissimi giorni, Andrea Zini, vicepresidente di Assin.Colf, che è l'associazione dei datori di lavoro domestico. Buongiorno Zini, grazie per essere ritornato, perché voi proprio nei giorni scorsi avete fatto questa sorta di vademecum sull'assunzione della babysitter, con tutti i suggerimenti anche necessari che devono essere conosciuti naturalmente per fare un'assunzione all'insegna della totale regolarità contrattuale, ovviamente, ma anche per riconoscere la professionalità giusta che è quella che serve alle famiglie. Buongiorno Zini, grazie. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno ai radioascoltatori. E ben ritrovato anche Rosario Rasiz, amministratore delegato di Open Job Metis, che ricordiamo è una grande agenzia per il lavoro, l'unica quotata in borsa in Italia, ma è anche presidente di Assosom, che è l'associazione italiana delle agenzie per il lavoro. Rasiz, ben ritrovato e grazie. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. Mauro, cominciamo dalle Mary Poppins? Sì. Allora, Zini, quali sono le domande che stanno arrivando, magari anche alla vostra categoria in questo momento, per tutte quelle famiglie che si sono già attivate per l'individuazione della babysitter d'emergenza che sta servendo in questi giorni? Magari qualcuno si è già mosso senza aspettare l'intervento dello Stato, che speriamo arriverà, ma magari qualcuno ha già dovuto tirar fuori soldi di tasca propria per magari implementare il numero di ore della babysitter sulla quale già faceva affidamento in precedenza. Ad Assin.Golf stanno arrivando domande: come state supportando le famiglie in questo senso? Ma la situazione è molto complessa e caotica, e devo dire che ha due tendenze, quelle delle nuove assunzioni per l'emergenza e quelle dei licenziamenti per la paura. Ah, ecco. Quindi da questo punto di vista noi in questo momento vorremmo dire manteniamo la calma e aspettiamo il documento, il nuovo decreto del Ministero. Noi abbiamo chiesto interventi che sicuramente non toglieranno il costo del lavoro domestico, quindi chi se ne sta facendo carico, che se ne farà carico, non conti su un costo coperto, ma su un aiuto. E allo stesso tempo diciamo che vanno aiutati anche i lavoratori che rischiano di rimanere a casa, e tra questi anche babysitter. Attenzione, non solamente, sembra strano, ma la paura a volte dice: io me ne sto a casa, mi dicono di stare a casa, io me ne sto a casa, e questo ovviamente aggrava situazioni di un determinato tipo. Ne avvantaggiano altre, perché abbiamo presente che molti lavoratori sono a casa e quindi hanno loro la necessità di sospendere la propria babysitter, la propria colf o la propria badante. È lo stesso principio di cui avevamo parlato appunto anche nei giorni scorsi, soffermandoci proprio sul ruolo dei badanti e sulle richieste e esigenze dei badanti e collaboratori familiari. Sì. Noi infatti abbiamo chiesto due tipi di misure, anzi a dire la verità abbiamo chiesto tre tipi di misure al governo. Uno, quello che gli aiuti vengano previsti, come dicevamo, per dei rapporti di lavoro in regola o libretto famiglia o regolare assunzione, e quindi ci sia una trasparenza nell'erogazione di questi importi per non incentivare il lavoro nero, che è spropositato nel nostro settore. Due, che ci sia la predisposizione degli ammortizzatori in deroga, che tutti gli annunci dicono tutti i lavoratori sono coperti, tutti i settori sono coperti. Non è vero, nel decreto 9 è esplicitamente scritto che il cassa in deroga non riguarda il lavoro domestico, e mi piacerebbe capire perché. Noi continuiamo a chiederla. E quindi sia per i nuovi assunti per l'emergenza, sia che per quelli lasciati momentaneamente a casa per l'emergenza, ci devono essere degli strumenti. In più, siccome nelle ultime ore si sente parlare, in particolare Regione Lombardia, Regione Veneto, hanno chiesto un blocco totale delle attività non essenziali, se ritorna fuori il problema delle vecchie zone rosse degli 11 comuni, cioè se non ci si può proprio più muovere per queste emergenze e non si può nemmeno andare a lavorare, occorre che il lavoro di assistenza a persone non autosufficienti, in questo caso, come diceva lei, anche le babysitter, quando i genitori sono tenuti a loro volta ad andare a lavorare, e soprattutto gli anziani e i disabili, siano gestiti presso la propria abitazione, è necessario che venga individuato uno strumento per dire: queste attività devono essere monitorate per la salute del datore di lavoro e del lavoratore, ma devono proseguire. Mm-hmm. Il famoso lascia passare di cui parlavamo la volta scorsa. Certo. Zini, vorrei, non so se voi avete chiesto qualcosa del genere al governo, se si può chiedere. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, tre anni fa, si poteva anche avere una babysitter con dei voucher. Poi questo sistema è stato sostituito dal libretto famiglia, che è decisamente più farraginoso, e mi fermerei qui. Avete chiesto di tu, magari, che so, un ritorno a quel voucher che si prendeva in tabaccheria anche? Perché pare che eventualmente questo voucher babysitter, che potrebbe valere 600 euro per famiglia, potrebbe essere accreditato capitato proprio sul libretto famiglia nella modalità attuale. Esatto. È questo che diciamo, sì, è un po' faraginoso attivare il libretto famiglia, ma è trasparente. Ed è trasparente anche nell'utilizzo. Voglio dire, se la famiglia deve, come dire, finanziare il conto sul quale è appoggiato il libretto famiglia, perché poi i lavoratori e i contributi vengono pagati, i soldi vengono prelevati da quel conto, però è uno strumento utile e funzionante per la trasparenza che dicevo prima. I 600 euro vengono richiesti, depositati sul libretto famiglia, e in questo modo non c'è, la famiglia deve metterci meno soldi e siamo sicuri che lo Stato li sta spendendo nel modo corretto. Allo stesso tempo esiste la carta dei servizi del cittadino, credo che si chiami così, per i percettori di reddito di cittadinanza, che prevede che ci siano determinate spese che possono essere fatte con quella carta. Il lavoratore domestico, non con il libretto famiglia, la babysitter o la badante ovviamente, non gestita con il libretto famiglia ma con un'assunzione effettiva, potrebbe essere pagato con questo sistema. Sono sistemi che già esistono da tempo in Francia, devono essere probabilmente perfezionati, non si potrà fare tutto e subito. Penso che molto probabilmente il grosso di questi aiuti verranno erogati come deducibilità dalle tasse a fine anno o come rimborso anche per gli incapienti sulla dichiarazione dei redditi, perché è l'unico strumento funzionante. Sarebbe invece il caso, soprattutto se parliamo di cassa integrazione in deroga, che non si debba aspettare per le famiglie o per i lavoratori dei tempi infiniti, e quindi certo, l'erogazione della cassa in deroga, come avviene per tutti gli altri settori, l'INPS le faccia sempre tramite le regioni, tramite l'INPS, le vengano effettuate direttamente al lavoratore. È un auspicio per molti. Ritardo, grazie Zini, mi spiace, dobbiamo interromperla perché è tardissimo. La ringrazio. Grazie in tanti, ci sentiamo in una prossima puntata. Chiedo a Rosario Rasizza un minuto di pazienza. Io avevamo già anticipato che avremmo traslato il suo intervento nella seconda parte della trasmissione. Lui è molto gentile, so che ha pazienza. E trasliamo io... perché, cara Deborah, adesso devi darci le ultime su le borse. Chiedo scusa, io ho comprato le birenzine e ci ho guadagnato un sacco. Grazie Manera. Due di denari. Premier Conte ha appena dichiarato che sono stati stanziati 25 miliardi, ma che non potranno essere subito spesi. Ecco, qualcosa mi preoccupa. Quante volte abbiamo sentito di soldi stanziati e poi mai spesi? Lo smart working purtroppo non è concesso a tutti. Quelle periferie dove non arriva ancora il 5G, che sono pochi, e ancor meno la banda larga, purtroppo si trovano in difficoltà perché la rete, essendo non sufficiente per il trasporto dei dati che serve per questo lavoro. Buongiorno, una piccola domanda. Io ho una pizzeria. Dovesse capitare malauguratamente che di colpo dicessero basta, chiudiamo tutto, facciamo 15 giorni di quarantena forzata per tutti a casa, i miei latticini che fine fanno? Mi sento di dire a questo ascoltatore che non è un'eventualità molto remota, gli suggerisco di consumarli tutti quanto più possibile e di non fare grandi scorte, come credo si stiano organizzando molte imprese in questo momento che stanno utilizzando le scorte già in deposito. Poi non lo so, non sono un industriale, non so bene come funzioni, ma così mi muove un po'. Purtroppo le merci deperibili diciamo i rifornimenti di tipo deperibile, se si va incontro a una chiusura totale, avranno così un destino infausto. Esatto. Che dobbiamo dire. No, magari si può sempre andare in parrocchia e cercare di capire se c'è gente che ha bisogno, magari piuttosto di regali, suggerisco, e non buttiamo via niente. A questo proposito, sul Sole 24 di oggi si parla anche delle donazioni facilitate. per quanto riguarda imprese e persone fisiche, appunto è stata una delle disposizioni prese nei primi giorni dell'emergenza, provi a consultare nelle pagine di norme tributi, a chiedere magari al suo commercialista se è possibile una donazione anche per che so, un ente benefico. Certo, l'azienda mia di mia moglie ci fanno lavorare, abbiamo due bimbe a casa, in questo momento da babysitter la fa la nostra vicina di casa. Come la paghiamo? Ci aiuteranno? Nicola da Verona ci scrive, speriamo di sì, siamo in attesa con voi di avere maggiori dettagli sul riconoscimento di questo voucher, di questo bonus da erogare tramite libretto famiglia. Non sappiamo ancora, Nicola, vi siamo vicini in questa fase di attesa. Chissà come cambia il lavoro nelle agenzie per il lavoro ai tempi del coronavirus, Mauro. Ma infatti chiediamolo a Rosario Rasizza, anche perché poi gli segnalo un messaggio che ho visto su Twitter poco fa. Rasizza, buongiorno. A voi. Allora, che ci segnalava già appunto nei giorni scorsi, stanno crescendo le domande di babysitter ma anche di infermieri, per domande private o anche domande di, che so, cliniche, ospedali, case di cura, cose del genere? È evidente che in questo periodo quel tipo di professionalità è ricercata in tutta Italia da tutti, ma è altrettanto evidente che non se ne trovano pochi, e quelli che ci sono hanno anche timore di andare in questo momento a lavorare. Quindi, come sempre, il cane che si morde la coda. Se la domanda iniziale che mi facevate era che cosa pensa di tutta questa situazione, io avrei risposto in inglese: un casino. Cioè, è veramente un casino. Per un imprenditore oggi è difficilissimo. Noi abbiamo modificato la gestione della nostra azienda 3 volte in 3 giorni. Ovviamente mettendo al centro le persone, quindi la loro salute, ma nello stesso tempo cercando di garantire che l'azienda rimanga operativa sia per i nostri clienti, sia per i nostri 20.000 lavoratori e sia per il futuro dell'attività. Quindi è veramente un casino. Lo dico in maniera semplice, perché ho sentito il collega di prima con i voucher, la babysitter, ma secondo voi oggi dovevamo parlare della babysitter, del voucher? Cioè, il governo deve fare altre cose, perché non funzionavano ai tempi quando c'erano i voucher, funzionerebbero adesso? Secondo voi la gente va a guardi bacchino, le confido questo segreto, Rasizza: tutte le volte che siamo in riunione con Mauro, la cosa che lui dice sempre è questa: io mi auguro che in questo momento nella testa del ministro Nunzia Catalfo ci sia una sola parola d'ordine, semplificazione ai massimi termini proprio delle procedure. Ma poi sembra semplificazione quello che stanno immaginando. Devono fare poche cose, al massimo 3, perché più di 3 è difficile. 3 cose semplici, e noi imprenditori abbiamo già suggerito più volte che cosa fare, ma ci devono ascoltare almeno per una volta. La prima cosa che dovrebbero annunciare in maniera semplice è che a partire da aprile, quindi aprile, maggio, giugno e luglio, non ci sono, per quanto riguarda le aziende, i versamenti dei contributi a carico dipendente. Non li vogliamo poi regalati. Questi contributi siamo disposti a pagarli nei successivi 24 mesi e con questa liquidità decidiamo di tenere aperte le aziende, sostenere i nostri dipendenti, paghiamo noi il voucher della babysitter, chi se ne frega, basta che l'azienda rimanga viva. È stato chiarissimo, Rasizza. Nel frattempo però tutte le persone che vi chiamano, le aziende, i privati, perché hanno bisogno di infermieri, babysitter, ci avete dato la vostra disponibilità per commentarci anche questo frangente di bisogno che è molto personale. Come li aiutate a gestire questi problemi? Li aiutiamo ovviamente con, in questo caso, lo smart working ci viene incontro. Ma lei può immaginare mai la selezione di un tornitore, di un saldatore, di un calderaro con lo smart working? Via WhatsApp, però per quelle figure che lei ha descritto, attestati curriculari, curricula, esperienze precedenti, si possono attestare in videochiamata, avvisiamo il nostro cliente se è disposto ad incontrarlo, perché io devo poi mandarlo presso il nostro cliente a fare il colloquio. Abbiamo fatto le autocertificazioni come previste dal decreto per consentire anche il colloquio, perché qui la regola dice: tu puoi andare a lavorare, ma io ho bisogno anche che il lavoratore possa andare una volta a farsi vedere in azienda. Quindi abbiamo fatto noi un modellino che in caso venga fermato dice: lei dove sta andando? A fare un colloquio di lavoro. Certo, ah certo, perché questo il Ministero dell'Interno naturalmente ha questo pensato. Permesso per la circolazione, ovviamente non si possono contemplare tutte le eccezioni, tutti i microcasi. Fate giusto. Bene voi a suggerirli naturalmente siamo come professionisti. Gestiti questa cosa. Mm-hmm. Razizza, è comparso su Twitter poco fa un annuncio, non so, spero che sia una cosa reale, l'Istituto Spallanzani che cerca infermieri, ma è possibile una cosa del genere? Cioè nel settore pubblico possono fare una specie di chiamata così generalizzata? Non ci sono procedure un pochino più rigorose? Ovviamente ci sono, se fossimo in una situazione normale ci sarebbero i concorsi, le graduatorie, tutto un percorso, ma la domanda è: siamo in una situazione normale o siamo in una situazione emergenziale? No, perché proprio di questo discutevamo. Discutevamo con Mauro Meazza e mi sono resa conto di non conoscere minimamente le procedure di reclutamento e selezione del personale infermieristico negli ospedali. Immaginavo che avvenisse tutto proprio su modalità concorsuale, non avrei mai immaginato che ad un certo punto un'agenzia per il lavoro privata appunto dovesse intermediare anche questi professionisti. E quindi mi sta comunque confermando che è una situazione straordinaria, che generalmente se c'è una struttura privata. L'ospedale privato lo posso fare, ma essendo pubblica dovremmo muoverci attraverso. Ma guardi, se io oggi avessi degli infermieri, li darei a prescindere dall'intermediazione, ma stiamo parlando dell'intermediazione di 10 infermieri, di 20 infermieri? Certo. Cioè, ma qual è il problema? Beh, dice, li regalo se li trovassi. Liberalizziamo il più possibile, come diceva. Certo. Semplifichiamo. Allora, la ringraziamo Razizza, ovviamente anche per lei l'invito che rivolgiamo spesso a molti dei nostri esperti in questi giorni, cioè restiamo in contatto perché le cose, le normative, le disposizioni cambiano veramente a volte durante la stessa giornata, e allora restiamo in contatto, resti in contatto anche lei con noi, sempre con la disponibilità mostrata per aiutare gli ascoltatori. Adesso c'è invece il traffico. Due di denari. State tranquilli che i soldi, i miliardi di euro per salvare le banche li trovano e li usano subito. Ma io sono veramente sconcertata. Una persona che ha una pizzeria non sa che la mozzarella si può congelare. Io sono anni che la congelo, è buonissima. Ma veramente, guarda, non capisco. Che scandalo, che non sapeva neanche il pizzaiolo che la mozzarella si potesse congelare. Io posso dire che però, con tutto il rispetto per la mozzarella, che mi piace anche molto, forse adesso parliamo un attimo invece con Enzo De Fusco delle questioni di lavoro. Già abbiamo un po' sondato con Razizza, la persona che sta andando al colloquio di lavoro è uno spostamento di quelli consentiti. Razizza dice: beh sì, insomma, dovremmo considerarlo una condizione di necessità. Allora, abbiamo di nuovo convocato Enzo De Fusco, buongiorno, grazie Enzo. Buongiorno, buongiorno Mauro. Condividi questa indicazione? Se sto andando a un colloquio di lavoro, naturalmente deve essere una cosa vera, altrimenti ripetiamo, c'è anche l'arresto per il mendace, per chi appunto dice il falso in queste dichiarazioni. È così, lo condividi questa posizione? Il colloquio di lavoro vale? Allora, guarda, io sono dell'idea che il solo dovere di andare al lavoro o di andare a fare un colloquio è condizione essenziale e utile per potersi spostare all'interno del territorio italiano. Sono tra quelli che pensa che l'autocertificazione del Ministero dell'Interno, purtroppo lo catalogo tra quei soliti atti burocratici inutili, perché se devo andare in giro con un'autocertificazione firmata da me, sono in grado anche di attestarlo in viva voce a chi mi ferma ed eventualmente apporre una firma dove esse è necessario. Noi ci stiamo concentrando sul modulino, sì, quando invece si stanno realizzando situazioni molto più gravi. Ve ne racconto una: i negozi che all'interno dei centri commerciali sono costretti a chiudere perché non stanno più in piedi, vengono minacciati di applicazione di penali da parte dei proprietari delle dei centri commerciali, che penali immagino pensate in epoche economiche sostanzialmente normali, ma che se vengono minacciate e magari anche applicate in epoche emergenziali è veramente dopo il danno anche la beffa. Ecco, concentriamoci su questo e non sui modulini, che francamente capisco la responsabilità di stare a casa, ma se io vado al lavoro dichiaro che sto andando al lavoro e passo dove devo passare. Sono completamente d'accordo, naturalmente forse non c'è neanche bisogno di dirlo, bontà mia. E vediamo la questione delle ferie imposte, perché ne abbiamo già parlato, lo so, te l'abbiamo già chiesto, ma ribadiamolo. Il datore di lavoro in queste fasi può imporre ai lavoratori di stare in ferie, è così, ho capito bene? Beh, diciamo che lo abbiamo detto in tempi non sospetti, no? Lo abbiamo detto per tempo e oggi il quotidiano, anche altri autori iniziano a confermare, assolutamente sì, noi siamo in una situazione in cui già generalmente le norme consentono al datore di lavoro una sorta di prelazione, di scelta del periodo di utilizzo delle ferie, e questo in condizioni di normalità. Molti contratti collettivi mitigano questa disposizione normativa attraverso una condivisione dei periodi, ma sempre nel rispetto delle esigenze aziendali. Però in diritto esiste un principio secondo cui se l'azienda chiude o chiude totalmente o chiude parzialmente degli uffici o di altri aree o di altre aree, lì c'è proprio un atto unilaterale che può essere adottato da parte del datore di lavoro nel scegliere il titolo di assenza. Questo è un caso emergenziale, ma si adatta alla circostanza, e quindi la risposta è sì, il datore di lavoro, soprattutto se ci sono dei residui di ferie significativi, a maggior ragione direi, deve procedere prima ancora della cassa integrazione, e comunque guardando sul territorio cosa sta accadendo, i lavoratori in qualche caso, in più di qualche caso, sono anche contenti, perché è un modo per conservare la retribuzione piena. Io non voglio essere quello che dà notizie negative, ma la cassa integrazione abbatte il reddito giornaliero mensile di circa il 40%, non ci aspettiamo la tutela al 100% stando a casa. È una giusta precisazione, cade a fagiolo, come si dice, che in questo momento la ministra Catalfo ha precisato, cioè da pochissimo, a ridosso del Consiglio dei Ministri svoltosi stamane, ci sarà una CIG speciale per tutti i lavoratori. Questo conferma, allora, nel decreto di venerdì, Enzo, noi vedremo questa sorta di causale per la CIG, per la cassa integrazione, causale coronavirus sostanzialmente. Eh sì, lo abbiamo detto l'altro giorno, io mi aspettavo il 12, in verità slitta per problemi di coordinamento con Bruxelles, però sì, la CIG speciale che cosa significa? Significa che chi ha già gli ammortizzatori ordinari come tutela utilizzeranno quegli ammortizzatori, quindi sostanzialmente chi ha la CIGO e chi ha il FIS con l'assegno ordinario, quindi il FIS è il fondo integrativo salariale, chi ha questi due ammortizzatori, ribadisco CIGO e FIS, utilizzeranno questi due sistemi ma con una causale speciale. Questo consentirà poi di applicare immediatamente l'indennità una volta ottenuta l'autorizzazione con il conguaglio, e quindi i lavoratori avranno certamente l'indennizzo in modo veloce in busta paga. Chi invece è scoperto dai normali ammortizzatori, e sono molti, attenzione, non stiamo parlando di una fetta residuale, forse poco meno della metà dei lavoratori dipendenti, quindi stiamo parlando di circa 6 milioni di lavoratori, potrebbero non avere una copertura di ammortizzatore ordinario, deve andare con la CIG in deroga. Quindi la CIG in deroga sempre speciale, il problema è che cambia interlocutore, l'istanza sì, va fatta alla regione, e a quel punto il pagamento potrebbe anche arrivare in ritardo. Certo, Enzo, allora, il caso di persona che viene a contatto con, aspetta che c'è Marco che mi vuole mettere una telefonata, adesso la faccio, lo faccio intervenire da Marco, però vorrei una risposta su questo perché ce l'avevi segnalato tu, Enzo, come tema da porre in evidenza. Si viene in contatto, una persona viene in contatto con un contagiato Covid-19 ma non si ammala, ma in ogni caso decide di mettersi spontaneamente in quarantena, che può essere in realtà una quarantena spontanea se lo denuncia, ma può essere anche che una volta denunciata l'azienda lui dice io non ci voglio stare perché sto bene, ma ti ci mette l'azienda. In quel caso come va considerato questo periodo? Malattia, è sostenuto da un ammortizzatore, che succede? Allora, qui siamo nell'ambito delle misure di prevenzione che lo stesso decreto dell'8 marzo stabilisce in maniera molto puntuale. Allora, qui i fenomeni sono due. Se vengo da territori, diciamo, particolari, dove si può registrare la zona rossa e la zona gialla, ad esempio, o addirittura da territori extra italiani, nei 14 giorni precedenti l'8 di marzo. Questa è una prima ipotesi. L'altra ipotesi è che io sia venuto a contatto con una persona che è stata contagiata, quindi uno dei 10.000 sostanzialmente ai numeri di ieri. Detto questo, c'è un obbligo da parte di ciascuno di noi di denunciare tutto ciò al servizio sanitario territoriale. Il servizio sanitario territoriale deve indagare, deve fare le domande specifiche per capire se tutto torna in termini di racconto e ed eventualmente disporre la quarantena obbligatoria, ovvero la sorveglianza domiciliare fiduciaria. E in questi casi, quando il Servizio Sanitario Nazionale, perché è lui il titolare della decisione, appunto decide che serve un periodo di quarantena, diciamola così, obbligatoria o volontaria, allora deve inviare l'informativa anche all'INPS e anche al medico generale, perché questa comunicazione rappresenta nel rapporto di lavoro lo stato di malattia e quindi a quel punto il lavoratore avrà diritto ad un indennizzo non da cassa integrazione ma da malattia, e pertanto questo percorso deve essere ben tracciato, perché se siamo fuori da questo percorso che ho appena riferito non potrà mai essere considerata malattia. Quindi deve passare attraverso la decisione del servizio sanitario, della AST, insomma la vecchia USL una volta si diceva. Assolutamente sì, Mauro. Che stabilisce, c'è la quarantena, lei deve stare in quarantena diciamo precauzionale. Sono le 11:56:30, il tempo a nostra disposizione è terminato. Enzo, sono certa che dovremmo richiamarti ancora per un aiuto nei prossimi giorni. Grazie per essere stato con noi, a presto. Enzo De Fusco è il nostro consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore. Bene, terminiamo qua. Caro Mauro, domani ci sentiamo, ma un pochino a distanza. Dai, facciamo una prova. Sempre a distanza, alla giusta distanza. A domani, buona giornata.